di Tito il figlio, ora qui viene. Servilia, impaziente d'abbracciar la consorte, l'invia Geminio, e il più soffrir non puote nel tuo piede dimore. Eccolo, porco tronne, non ho meno. Stringerò tosto il caro luna anch'io. Io son fuor di speranza, o cieco Deo. Figlio, le nozze di Vitellia, e quanto dir il Germal le impose, Servilia mi narrò, giusta ben quella t'abbracci, e tu c'affretti col tuo ridente arrivo, un sì bel dì il lucido sereno. Maglio, vieni al mio seno. Gran genitor, da quel che tu mi credi, a te che assai diverso or mi appresenta. Non vieni da Latini. Vengo dal campo, e sensi di Geminio non rechi, e non arrivi ragguagliator di pace, che di doppio Imeneo mi lacci in porta. O Vitellia, o Serviglia, o padre, ascolta! Co cavalier dei Tebro, nel campo dei Latini, dell'usbergo sfamoso e sen vestito, portai veloce pie. Fu con Geminio il primo incontro. Questi, con vili pendi e scherni, mi sfida all'armi, ingiurioso e fiero. Io che son cavaliero, l'armi vebro e l'occido, che pugnai provocato, sopra Serviglia, il padre di senato. Morto è Geminio. Quelle spoglie sono del vinto, di cui non te sfuggir io non potei. Maglio crudele, a te. O sperar io ritorno, fetti miei. Dell'ucciso Geminio al vivo sangue cade Vitellia esangue. Or chi l'indusse contro i Latini a non giurar le stragi, scopre il duol che l'uccide. Per Geminio svenato, mia golla il dio bendato. E del mio fuoco più rival non sarà. Nei lor soggiorni l'una e l'altra si porta.